Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal 2012 cerca di ispirare a vivere, pensare e agire senza crudeltà. Siamo arrivati alla puntata numero 484, nella quale parleremo di sacrifici animali dichiarati compatibili con la Costituzione, di nuovi paesi che si accingono ad abolire i circhi con animali selvatici, parleremo della mannaia che si sta per abbattere su 2 milioni di gatti in Australia, di leoni allevati per essere cacciati, di eroi ambientalisti. Il tutto condito da una ricetta che non potevamo che dedicare ai gatti e da una scaletta musicale che assolutamente non potete perdere. Vi abbiamo incuriositi? Allora non perdetevi questa nuova puntata! Apriamo la puntata di oggi con una notizia che merita davvero di essere raccontata. Siamo in Mongolia e qui una insegnante di 49 anni è riuscita a compiere, possiamo dirlo, un piccolo miracolo. Ha evitato che il leopardo delle nevi scomparisse definitivamente dal sud della regione. Per anni e anni questa insegnante si è infatti battuta affinché il suo governo creasse un'immensa riserva naturale nel deserto del Gobi meridionale, riuscendo anche a far annullare 37 contratti minerari nella zona per opere di estrattivismo. Nella Mongolia meridionale, si legge anche su greenme.it, la popolazione di leopardi delle nevi si è ridotta sempre più nel tempo a causa della perdita di habitat e del bracconaggio, ma anche perché erano preda dei contadini mongoli per proteggere il proprio bestiame. Il successo del lavoro dell'insegnante mongola Bajar Jargal parte in realtà proprio da qui, dai contadini. Dopo aver messo in atto con successo un programma di assicurazione per i pastori locali, è riuscita infatti a reclutare dalla sua parte i contadini come alleati nella difesa dei grandi felini. Quando poi nel 2009 ha preso delle vaste operazioni minerarie che venivano lanciate in un'area delicata per l'habitat del leopardo delle nevi nel deserto del Gobi meridionale, ha combattuto strenuamente fino a ottenere, si legge sempre su GreenMe, la trasformazione della regione nella enorme riserva naturale Tost Tosan Bumba, la prima area protetta in Mongolia, creata appositamente per la conservazione del leopardo delle nevi. Un impegno che le valse il Goldman Environmental Prize, il premio ambientale Goldman per il 2019, un riconoscimento prestigioso che viene assegnato annualmente agli attivisti ambientalisti di tutto il mondo, che si distinguono per aver difeso l'ambiente. Un premio che sì, riconosce l'impegno di una persona che ha saputo fare veramente la differenza, ma che deve essere anche letto da chi si batte tutti i giorni contro ogni forma di ingiustizia, come una sorta di monito, un invito a non mollare mai, nonostante le mille difficoltà, perché le cose a volte possono cambiare. E questa storia ce l'ha raccontato benissimo. Stars in the air. Per quanto ci piacerebbe poter riempire la nostra puntata di Good News, la realtà ce lo impedisce. A riportarci infatti con i piedi per terra una incredibile inchiesta che arriva dall'Inghilterra, durata oltre un anno e denominata Operazione Simba, che ha rivelato come in Sudafrica siano stati allevati e poi uccisi centinaia di leoni per essere cacciati dai turisti e dai cacciatori europei, prevalentemente inglesi, con l'obiettivo di contrabbandare le loro pelli o vendere le carcasse dei felini in Estremo Oriente. I ricchi cacciatori di trofei, si legge su tg24sky.it, sono accusati di aver pagato migliaia di sterline per sparare agli animali in cattività, come se non bastasse spesso da brevi distanze, in modo da poter essere fotografati con il felino nell'atto di cacciare. Nello specifico, un uomo ha pagato 3.000 sterline per essere lasciato da solo in un recinto con un leone di nome Simba, ucciderlo e farsi appunto fotografare. Per aggiungere orrore all'orrore, l'inchiesta ha anche rivelato come in questi allevamenti sudafricani leoni, ma anche tigri, venivano ibridati con l'obiettivo di creare animali più grandi e più imponenti, che avevano un valore maggiore per chi voleva cacciarli e ucciderli. Una vera industria di carne felina che per fortuna è stata finalmente smascherata. Dagli animali sacrificati come trofei di caccia passiamo a parlare di animali sacrificati per motivi religiosi. Si apprende infatti dall'agenzia di stampa ANSA che il Supremo Tribunale federale brasiliano ha deciso all'unanimità che il sacrificio di animali nei culti religiosi non sarebbe incostituzionale. La questione era approdata alla Corte Suprema attraverso un ricorso del pubblico ministero del Rio Grande do Sul contro una decisione della Corte d'Appello di quello Stato, che autorizzava la pratica in relazione alle religioni di origine africana, purché svolta senza eccessi e senza crudeltà. Su questa decisione abbiamo intervistato il filosofo Luigi Lombardi Vallauri nel servizio di Lorenzo Guadagnucci. Siamo col professor Luigi Lombardi Vallauri. Questa volta parliamo di una sentenza della Corte Costituzionale brasiliana che ha riconosciuto come legittimo rispetto alla Costituzione stessa la pratica del sacrificio animale durante i riti religiosi a certe condizioni. Ecco, che riflessione si può fare su questo spunto di cronaca, possiamo dire, di cronaca che ha a che fare con l'ordinamento giuridico di un paese lontano, ma un paese democratico e quindi che in qualche modo ci riguarda, ci è vicino. Ma io credo che il vero problema sia cosa pensare del sacrificio degli animali. Recentemente ho presentato il libro di Gianfranco Mormino, Dalla predazione al dominio, del 2017. Lui demitizza proprio, direi, radicalmente il sacrificio come ingraziamento, dice, di una potenza senza il cui favore, usando cioè semplicemente la propria forza, non si può ottenere un risultato desiderabile. È una sottomissione, un do ut des utilitaristico, simile agli ingraziamenti compiuti anche da alcuni animali, per esempio per ottenere il favore della femmina. Secondo Mormino, il sacrificio religioso, diversamente dagli ingraziamenti animali, ha un valore solo immaginario e illusorio. E infatti nel mondo moderno è quasi sparito, non perché crudele, facciamo cose molto più massicciamente crudeli sugli animali, ma perché non credibile sul piano causale. Comunque, moltissimo prima della riduzione materialista tipo Mormino, il sacrificio degli animali aveva subito una decisiva critica spiritualista. Ben 2,5 millenni fa, sia il buddismo che il giainismo, inaugurando per sempre l'etica della non violenza, hanno respinto il sacrificio vedico, che pure veniva compiuto con estenuante preparazione ascetica del sacerdote e con straordinarie remore, per non dire rimorsi, nei confronti della vittima offerta al Dio. Anche autori greci, tra tutti Teofrasto nel Della Pietà e Plutarco, sacerdote a Delfi, hanno negato ogni valore umano e religioso al sacrificio degli animali. Quindi, il sacrificio cruento è un crudele residuato storico che non si giustifica né sul piano materiale né sul piano spirituale. E veniamo al diritto. Il sacrificio cruento contraddice alcuni principi fondamentali del diritto europeo e italiano che condannano esplicitamente l'uccisione di animali con crudeltà e senza necessità. Tuttavia in Italia è ammesso, in ossequio al principio della libertà religiosa, il sacrificio cruento ebraico e islamico, che, oltre che i principi generali, contraddice anche norme speciali sulla macellazione, in quanto, per esempio, esclude lo stordimento previo. L'animale deve essere, per così dire, sgozzato da morto, o da quasi morto, da ammazzato. Stordimento previo con la pistola proiettile cattivo. Gli animali devono essere sgozzati vivi perché i testi sacri esigono il completo dissanguamento della carne. Allora, cosa dire della sentenza brasiliana? Io non conosco il diritto costituzionale brasiliano. È probabile che sia stato interpretato in uno dei modi logicamente accettabili. Non esiste mai un solo modo di interpretare una norma. Posso però, uno, auspicare che la fattispecie giuridica sacrificio religioso cruento venga sempre più severamente coordinata ai principi giuridici di riconoscimento e protezione degli animali in quanto essi senzienti, quindi sempre più cautele. E due, desiderare che la pratica sacrificale diventi anche per le religioni problematica e obsoleta. Una notizia sconvolgente ha scatenato fortissime polemiche sul web pochi giorni fa in seguito all'annuncio da parte del governo australiano di voler uccidere 2 milioni di gatti feral entro il 2020. I gatti feral non sono gatti selvatici, ma gatti che si sono rinselvatichiti, animali che erano di casa, sono stati abbandonati o lasciati troppo liberi senza essere sterilizzati e si sono adattati all'ambiente tornando a essere cacciatori, tornando a essere felini. Ma perché il governo australiano è voluto ricorrere a una scelta così drastica? I gatti, si legge su un interessante articolo pubblicato su Corriere.it, sono accusati di uccidere uccelli e altri piccoli animali, come alcune specie di marsupiali presenti solo in questo continente, fino a metterli a rischio di estinzione. Sono dunque stati classificati come nocivi. Così adesso verranno sterminati con appetitose salsicce imbottite di veleno, che potrebbero ovviamente uccidere anche altri animali, con trappole crudeli e con fucili. Sempre più animali stanno diventando nocivi. Pensiamo alle nutrie allevate in Italia per le pellicce e poi abbandonate e oggi considerate appunto animali nocivi. O agli scoiattoli grigi e ancora ai cinghiali. E ora anche il pet per eccellenza, il gatto, si aggiunge all'elenco sempre più lungo dei nocivi. Questo grande massacro di gatti sarà l'ennesima falsa soluzione, anche se naturalmente ci auguriamo che non si arriverà davvero a questo momento. Per proteggere la fauna selvatica, si legge ancora su questo articolo del Corriere.it, è necessario difendere gli habitat distrutti dall'antropizzazione, costruzioni, strade, miniere e molto altro. Cosa molto più complicata che sparare a dei gatti disarmati, abbandonati dagli esseri umani e che cercano ovviamente di sopravvivere. Potevamo quindi che dedicare ai gatti la ricetta di oggi, curata come sempre dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, all'interno del suo spazio etico gastronomico Il Passo Gentile. E vi ricordiamo che tutte le ricette, così come le puntate, sono riascoltabili in podcast sul sito www.restiamoanimali.it. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. A proposito di gatti, lo sapevate che l'erba gatta non è solamente quella filiforme consumata da molti felini? Esiste un'altra varietà di erba gatta che cresce spontaneamente, con foglie e aroma che ricordano quelle della menta. Ecco allora la ricetta di questa settimana che vede impiegate le foglie di questa pianta aromatica. Bocconcini di zucchine all'erba gatta. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 zucchine, 100 g di ricotta vegetale, di soia o di mandorle, oppure del tofu, uno spicchio di aglio, erba gatta, pan grattato, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Tagliate le zucchine orizzontalmente, ottenendo dei cilindri di 4 o 5 cm di altezza. Con un svuota zucchine o con un cucchiaino, togliete delicatamente la parte interna che triterete al coltello assieme all'aglio e all'erba gatta. Unite la ricotta vegetale, oppure se utilizzate il tofu, fatelo bollire per 5 minuti in acqua salata, quindi scolatelo e tritate. Aggiustate di sale e pepe, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine di oliva ed un cucchiaio di pan grattato. Salate leggermente l'interno dei cilindri di zucchine e riempite con la farcia ottenuta. Sistemate i bocconcini in una teglia con carta forno, passate un filo d'olio e un pizzico di pan grattato sopra ad ogni zucchina. Fate cuocere in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. Quindi servite decorando con una fogliolina di erba gatta.